Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko. Ed eccoci nuovamente in diretta con il Breakfast Club in Last Minute, perché Last Minute, nonostante l'esposizione sia fino al 17 novembre 2024, perché aperta ufficialmente il 28, presentata il 27 in inaugurazione, Museo Civico del Risorgimento, settore Musei Civici di Bologna, con l'associazione culturale Felsina Pettrice, presenta Lacrime di Pietra. Lacrime di Pietra è un lavoro dell'artista Erika Calardo. Conobbi Erika per passioni musicali condivise in quel del Disco d'Oro alcuni anni fa, poi passaggi come artista, il lavoro di ricerca e approfondimento per quanto riguarda un'ispirazione molto forte che la porta a studiare in approfondimento i monumenti per il nostro deposito delle memorie. È un'esposizione estremamente importante per quanto riguarda la ricerca fra la vita e la morte, tra il chiaro e l'oscuro, tra la luce e l'ombra, tra un'estetica consolatrice e una bellezza forte, intensa, emotivamente importante. Il lavoro portato da Erika e da allievi che hanno collaborato in maniera importante a questa stesura è un patrimonio veramente importante e da non perdere. Una riflessione sull'arte votiva. È un'artista, Erika, che oltre a essere molto dotata di talento ha una sensibilità ulteriore in questi aspetti, che tra l'altro viene da me condivisa, pur non essendo di certo un artista, soprattutto in ambito, non in altre situazioni, ma per quanto riguarda l'aspetto di figura non riesco neanche a immaginare quello che può essere riportato per quanto riguarda il dono del saper esporre in maniera figurativa. Vi saranno visite guidate alla mostra, con in programma domenica 3 17 novembre dalle ore 16. La partecipazione è libera con il biglietto d'ingresso del museo. Le opere esposte sono 35. La capacità di riprendere il monumentale e riportarlo, come ho detto, in maniera pittorica, con aspetti veramente di ispirazione forte, e del resto forte è l'argomento che stiamo trattando insieme ad Erika e allievi. Allora, Sergio Fanti è stato alla presentazione per quanto riguarda Lacrime di Pietra. Grazie Sergio, sentiamo questo inizio di conversazione con la stessa Erika Calardo. Mi trovo al Museo del Risorgimento di Bologna con Erika Calardo in occasione della conferenza stampa per la presentazione di Lacrime di Pietra, un lavoro molto importante che avrà luogo, questa esposizione, dal 28 settembre al 17 novembre. Si tratta di arte funeraria, che l'arte funeraria è un vero e proprio genere artistico con origini molto lontane. Infatti si parte praticamente dall'antico Egitto con le piramidi, no? Per venire poi ai giorni nostri. Sì, l'arte funeraria, in particolare l'arte intesa come consolazione, come con la sua funzione elegiaca rispetto alla morte, ha sicuramente tradizioni antichissime. Oggi è molto meno praticata rispetto al passato, però qui in questa mostra abbiamo avuto l'idea di avere un ponte con il passato e con questa tradizione, che in realtà è molto bella perché ci aiuta un po' anche ad accettare più facilmente un tema così importante, così difficile. Sì, perché nella nostra quotidianità praticamente noi la rigettiamo, sì. Ripudiamo proprio il pensiero della morte, anche se è l'unica cosa certa del nostro futuro alla fine, no? Anche nella letteratura, nella musica, la morte è comunque una presenza, perché tante volte ci sono delle composizioni letterarie o musicali, per esempio sulla lacerazione inconsolabile di una perdita. Sì, in letteratura cinema è pieno di esempi, anche perché nonostante si cerchi costantemente di non pensare alla morte, di toglierla, l'abbiamo tolta dal nostro quotidiano, in realtà è il contrappunto della vita ed è in modo latente sempre presente. Quindi dall'antologia di Spoon River a mille altri componimenti, la morte esce dalla vita, entra nell'arte spessissimo. Veniamo allora a Lacrime di Pietra, un'esposizione bellissima da cui ho il privilegio di essere circondato, che è il lavoro tuo insieme a quello dei tuoi 30 allievi. Esatto. Ed è un progetto che è nato praticamente per caso, insomma, da una gita studio in Certosa. Sì, è nato per caso perché con i miei allievi, che sono appunto 30, che io piace definire gruppo di studio, quindi noi ogni anno ci mettiamo, cosa facciamo quest'anno, dove andiamo? Concentriamoci un po' sul chiaroscuro, sullo studiare proprio la grammatica della luce, del modo in cui la luce si posa sulle figure e cercare poi di trovare una riproduzione in pittura. Quale luogo se non il deposito delle memorie monumentale della Certosa? Brava Erika Calardo, che con abnegazione, impegno e ispirazione ha saputo portare con un iperrealismo veramente magico l'emozione che non dà né alcun senso gotico, neppure divisivo e neanche respingente come spesso siamo abituati a pensare con l'argomento trattato, ma piuttosto un abbraccio, una comunicazione, oltre il consolatorio. Tutto questo grazie all'arte. E spesso mi chiedevo durante il mio lavoro, le mie visite, la mia presenza attiva all'interno di questi depositi, l'aspetto artistico, la pienezza nel completare il passaggio nelle dimensioni che ben conosciamo, come potesse essere trasposto in arte grazie a questi lavori. Beh, ce ne dà un pregevole esempio Erika Calardo con Lacrime di Pietra. Un piccolo stacco musicale prima di ascoltare la seconda parte, dove entreremo nel monumentale della Certosa con il lavoro di Erika Calardo, che sarà al Museo Civico del Risorgimento in Piazza Carducci a Bologna fino al 17 novembre, ovviamente, 2024. A tra poco. Floating clouds, soft world, I can't feel. a Bologna, in cui abbiamo questo meraviglioso museo a cielo aperto, super decadente, meraviglioso, pieno di statue, che è appunto la Certosa, che è anche patrimonio UNESCO, abbiamo detto vabbè, senza andare troppo lontano, senza cercare nulla sui libri, armiamoci di macchina fotografica e andiamo a caccia di soggetti alla fonte. Fra l'altro, tutte le opere della Certosa hanno questo gusto un po' malinconico, non so, si intonava molto all'atmosfera del mio corso di pittura. Ed è nato quindi in modo assolutamente casuale, come uno spunto per fare uno studio fra di noi, fino a trasformarsi invece in una vera e propria mostra in un museo civico, perché il progetto man mano prendeva forma da solo, cresceva da solo, si aggiungevano, ognuno dei miei allievi aggiungeva una parte del suo vissuto, della sua cultura e della... E quindi è diventato quello che vediamo oggi, una grande collezione di opere che sono state eseguite con la stessa tecnica, che sono di matrice realista e ciò nonostante parlano dell'intimità e dell'interiorità di ogni singolo artista che le ha realizzate. All'interno dell'esposizione ci saranno anche visite guidate e ci sarà anche un laboratorio in collaborazione col Dipartimento di Igiene Mentale. Tu curerai 3 incontri. Assolutamente sì, siamo in collaborazione con il Recovery College e il lavoro che porterò avanti con questo pubblico sarà quello di cercare di capire cosa significa fare arte, che è una cosa che spaventa, perché è un po', può essere tutto, può essere niente. Io quello che vorrei, il messaggio che vorrei dare è che l'arte è una cosa bella, che ognuno può praticare, ma serve un po' di progettualità. Quindi, così come in queste opere che sono qui esposte a Lacrime di Pietra, sono in grisaille, una pittura in diretta molto stratificata, anche lì di volta in volta farò vedere come osservare la natura e quello che ci circonda, narrare, perché l'arte è anche un aspetto narrativo, a volte didascalico e simbolico nella mia visione, e infine creare. Quindi, perché creare dal nulla spaventa. Creare un gradino alla volta con un progetto è qualcosa che possiamo fare tutti e arricchisce. Certo, ricordiamo quindi allora Lacrime di Pietra dal 27 settembre al 17 novembre al Museo del Risorgimento in Piazza Carducci 5 a Bologna. Grazie Erika. Grazie a te. Complimenti, perché il lavoro è veramente bellissimo. Grazie mille, vi aspettiamo. Sono le opere esposte grazie alla coprogettazione tra Azienda USL di Bologna, Dipartimento di Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Centro di Salute Mentale, Savena Santo Stefano, con un progetto Musei Innovativi Aperti del settore Musei Civici Bologna e l'artista Erika Calardo. Durante il mese di ottobre la mostra diventa inoltre uno spazio di formazione e condivisione con il corso, come ha già detto Erika, osservare, narrare, inventare. Perché ho voluto sottolineare questo aspetto? Perché c'è una visione ulteriore da chi ha altre prospettive, per esperienza personale, lo assicuro. Un timoroso rispetto per il mistero, un timoroso rispetto per l'ignoto, un rispetto che va oltre. A Sospiro, in provincia di Cremona, dove ho avuto l'onore di lavorare come operatore cimiteriale per quanto riguarda l'impiantistica, ho trovato tutto ciò, in quanto Sospiro è uno dei centri di accoglienza per questi disturbi tra i più grandi d'Europa. E a Sospiro ricordo questo ragazzo che costantemente presente all'interno del cimitero aiutava, anche se ovviamente in maniera totalmente volontaria, e durante i percorsi di distacco, quando l'estremo saluto arrivava dalla chiesa al deposito delle memorie, voleva assolutamente essere il primo a portare questo saluto. Una volta chiesi: perché vuoi essere sempre sul cancello quando passa il protagonista di questo saluto? È perché vorrei essere il primo a togliermi il cappello quando arriva. Tanto altro. Allora, grazie Erika Calardo, grazie alla bottega per questo studio e lavoro che ha portato Lacrime di Pietra, che sarà fino al 17 novembre 2024 al Museo Civico del Risorgimento in piazza Giosuè Carducci 5 a Bologna. Grazie a Sergio Fanti per questo prezioso lavoro di dialogo con l'artista. Tra poco saremo in compagnia dei Magazine con la rassegna stampa culturale dei 103.1. Dopo la pubblicità, Magazine, a tra poco.